טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. L'abbiamo fatto per voi, questo inizio diverso. Questa sera di solito abbiamo sempre la nostra, come dire, sigla da tenere in sottofondo, ma questa sera è una serata particolarissima. Ciao Maurizio innanzitutto. Buonasera Agostino, dopo la maratona di ieri sera siamo qua nuovamente. Siamo qua nuovamente, sempre qui staccano visti al lavoro, qui in radio, come non mai la passione è tanta, ma voi lo sapete che noi dedichiamo, come dire, anima, corpo, cuore, tutto insomma a questa radio. Allora, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera soprattutto da Blu Radio Veneto. Perché questo inizio così con Mamma Mia? Perché questa sera, purtroppo, ahimè, sono dispiaciuto, ma è l'ultimo appuntamento con il musical, con la rassegna Sognando Broadway. Da una parte, come dicevo, sono molto addolorato di questa cosa, però dall'altra parte sono molto contento perché ritrovo dei carissimi amici che ho imparato a conoscere un po' di più insomma in questo periodo, a cominciare dall'Antonella che ce l'ho qui vicino a me, insomma, che è una grandissima, come ho detto anche in tempo fa, una grandissima giornalista, poi magari ne parleremo, ma soprattutto c'è la compagnia Mush questa sera che ci è venuta a trovare per presentarci l'ultimo avvenimento, cioè quello di sabato prossimo, sabato 24 novembre 2012, comunque ci sarà anche domenica pomeriggio, domenica sera, ma insomma adesso ne parleremo con più dettagliatamente. E intanto quindi buonasera alla compagnia Mush. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. E ben ritrovati. Cesare, tu sei qui nuovamente? Sì, mi sono accampato qui fuori, ho la tendina. Insomma, questa sera sei in doppia veste, prima da regista del musical e poi anche per raccontarci un po' come sta andando questa rassegna. Certo. Il resoconto finale. Esatto. Ce lo dai già? O Beh, il resoconto finale posso anche già darlo, perché visto che gli spettacoli di Mamma Mia sono quasi del tutto esauriti, diciamo che c'è stato veramente quest'anno, è stata un'edizione fantastica, perché abbiamo fatto quasi tutto esaurito, tutti gli spettacoli, e perciò abbiamo quasi più di 3.500 spettatori, compreso anche quelli a venire di Mamma Mia, insomma. Noi siamo molto contenti, so che siete contenti anche voi che siete venuti a vedere tutte le date, gli spettacoli sono stati molto belli, certo. E adesso tocca al nostro, è come, sembra quasi di essere di dover fare l'esame di maturità e noi essere gli ultimi, esatto. E tutti gli altri sono stati, esatto, bravi, e noi dobbiamo fare anche noi la nostra figura. Esattamente, l'ultimo che fa l'esame di maturità ha un certo pathos, sì. Una certa paura, come esatto, si dice. Esatto. Comunque, insomma, abbiamo capito che è stato un trionfo quasi quest'anno. Sì, giusto? Sì, molto bene, molto bello. Quindi sei super soddisfatto, tu e la tua compagnia, diciamo. Beh, certo, certo, sicuramente. Il merito è stato un po' anche di Antonella, che ti ha dato una mano con le pubblicità, con l'ufficio stampa. Eh beh, certo, certo. Un po' tutti, sì, beh, l'ufficio stampa è stato molto importante, perché cioè i giornali ne hanno parlato tantissimo, anche oggi è uscito un articolo, anche sì. Oggi, anche ieri ne sono usciti, e perciò... Cioè, diciamo che ha avuto un ottimo riscontro. Maurizio. Sì, decisamente. Una bella cosa che ho visto, che Cesare e Alessandro hanno la maglietta. hanno la maglietta di Mamma Mia. Che pensavo io e lui abbiamo la maglietta, le ragazze invece sono nude. Hanno la maglietta di Mamma Mia. Già vuol dire, già una cosa importante. L'effigie, praticamente la chiave di lettura, la maglietta porta a un discorso molto interessante. Voi avete scelto di fare Mamma Mia, però la storia della compagnia è molto prima di Mamma Mia. Certo, ce la puoi raccontare un momento, Cesare? La storia della compagnia, che è interessante capire, perché è sempre difficile fare una compagnia amatoriale, è molto difficile, molto complesso. Praticamente in febbraio dell'anno prossimo, del 2013, festeggiamo i 10 anni. Noi abbiamo iniziato il 6 febbraio, la prima volta ci siamo trovati il 6 febbraio del 2003. E l'idea era quella di fare, ci eravamo trovati per fare il musical del Moulin Rouge. Certo. Ma in realtà era partito tutto come fare una data e poi basta. E poi chiudere tutto. E poi alla fine adesso siamo al decimo anno. E siamo partiti con un gruppo di ragazzi. Adesso quel gruppo di ragazzi si è ridotto moltissimo, perché siamo pochi di quelli che c'erano in quella data là. Però ne sono Siete arrivati rinnovati, molti nuovi. Esatto. E da quel giorno lì è partita questa avventura di Mouge, insomma. E nel 2005, cioè, per fare il primo musical, il spettacolo spettacolare, ci abbiamo messo 2 anni, perché poi abbiamo debuttato in gennaio del 2005. Anche perché ha avuto un grandissimo successo. Ha avuto veramente un grandissimo successo. L'abbiamo poi riproposto 2 anni fa. Modificandolo in alcuni aspetti, anche perché era il primo musical che facevamo e ci piaceva rinnovarlo in qualche modo. E adesso Mamma Mia. E io sono un rocchettaro, avete fatto anche Rockadelica. Abbiamo fatto Rockadelica. A me interessa molto Rockadelica, cioè il rock. Rockadelica, infatti, era partito proprio con l'idea di rendere un omaggio alla storia del rock, alla storia della musica. Da Elvis a U2 avete scritto. Sì, infatti, perché una delle prime canzoni è proprio una canzone di Elvis Presley, e finiamo invece proprio con una canzone degli U2. Quello forse l'abbiamo fatto troppo presto. Secondo me sì. Doveva essere fatto un po' dopo. Perciò può darsi, magari lo riprenderemo più avanti. Insomma. Perché gli ABBA possono essere gli U2 della musica pop, assolutamente. Anzi, lo sono assolutamente. Lo dice anche Bono, che tutti quanti hanno cantato un pezzo degli ABBA. C'è poco da fare. Ha detto Bono, ragazzi, dobbiamo essere sicuri che è proprio così. E quindi, al di là degli ABBA, voi avete proposto Mamma Mia, che è un musical difficile da fare dal punto di vista anche coreografico, anche dal punto di vista dell'assemblamento delle voci. Non è semplice. Sì, molto complesso. C'è la fatica. È molto complesso, soprattutto per il fatto che la musica e il canto è intersecato molto con quello che hai recitato e il ballato. E infatti ci sono alcune scene che durano 10-15 minuti, tutte di ballo, di canto, di recitato, tutte assieme, cioè non c'è soluzione di continuità. E perciò effettivamente, a dire la verità, eravamo partiti per farlo come un musical. Doveva essere questo una specie di trade union verso il prossimo musical che abbiamo già in mente. E invece alla fine, cioè vedendo anche come sta andando le prevendite, poi la gente che ha visto il film è attirata dal discorso del musical, è molto attirata, al film ha dato proprio un'enorme visibilità. Sì, esatto. Sì, una cosa che noi forse, a dire la verità, io me l'aspettavo, perché io avevo una scommessa in corso con qualcuno di queste persone che avevo già detto ancora a suo tempo che avremmo fatto una data aggiuntiva, e così è stato. È stata bruciata quasi del tutto, che è la data aggiuntiva. Sì. Bene. Quindi fra poche ore vedremo, sentiremo, tasteremo il polso a tutti i ragazzi. Adesso ne parliamo esattamente. Sì, poi magari parliamo anche un po' di Sognando Broadway, se mi consenti. Sì, certo. Perché giusto anche secondo il mio punto di vista dare anche le nomination che sono state fatte. Sì, le nomination, tra l'altro, che io adesso non le ho sotto mano, non ma me ce le ho ricordo. Io, non ti preoccupare. allora le darai tu. Beh, visto che sei anche uno dei giurati, è anche giusto. Giusto. Intanto dico chi ha vinto il Sognando Broadway, posso? No. Allora ve lo dico, perché intanto qui non mi ha vinto Peter Pan. Che era l'unico fuori concorso. Appunto. Vabbè, già che ci siamo, le possiamo già dire. Certo. Per quanto riguarda il miglior attore, abbiamo Fabio Pegoraro, che sarebbe Bertha in Arriva Mary Poppins, Alessandro Padrin e George Banks sempre in Arriva Mary Poppins, Mario De Toffani che sarebbe il vecchietto, cioè Downer Senior in Arriva Mary Poppins, c'è Francesco Corcioni che è Scar in La Rupe dei Re, poi c'è Francesco Castioni che è Zazu in La Rupe dei Re. Invece la miglior attrice è stata nominata Rossana Carraro come Mary Poppins in Arriva Mary Poppins, Giulia Rossa Casalatina in, che sarebbe Winifred Banks in Arriva Mary Poppins, c'è Giorgia Bedin che è Christine in Life in Plastic e c'è Jessica Grossule, cioè Simba, Grossule si chiama, sì, se non sbaglio, e Simba giovane, quella piccola, insomma, in La Rupe dei Re, e poi ancora Giulia Pegoraro e Rafiki sempre in La Rupe dei Re. Poi le altre nomination ovviamente non le possiamo dire perché insomma le vincitori, insomma, esatto, delle varie categorie non le possiamo dire perché lo scoprirete solo vivendo se arriverete fino a domenica pomeriggio. Qua Battisti lo citiamo un po' troppo. E quindi insomma l'appuntamento è alle 16.30 con l'inizio dello spettacolo, ma prima ci sono le premiazioni. Beh sì, alle 16.30 ci sono le premiazioni e vorremmo riuscire per le 17 a iniziare lo spettacolo. Io un po' di pavone me lo faccio, nel senso che Blu Radio Veneto è sempre, esatto, è sempre presente come media partner e io, come diceva giustamente Cesare, insomma faccio parte della giuria che mai comunque non ho più scopo perché abbiamo già fatto tutto noi e quindi l'appuntamento, come dicevamo, è per domenica dalle 16.30 circa per le premiazioni, per sapere innanzitutto chi ha vinto e poi per vedere appunto la seconda replica di Mamma Mia. La prima sarà sabato alle ore 21. E la, e la seconda appunto alle 16.30 dopo le premiazioni e la terza alle 21. Sì, esatto. Sempre lì al Polivalente. Sempre al Palazzetto Polivalente di Albignasego. Stavolta hai messo i cartelli. No, nessun cartello, seguite indicazioni stadio. Ecco, sempre lì ad Albignasego. Bene, io nel frattempo mi sono dimenticato di presentare chi abbiamo in studio e cioè facciamo apertamente i nomi, insomma, perché mi sembra giusto. A parte Cesare Bortolotto che ormai è di casa e fa parte della tappezzeria, abbiamo Alessandro Papalardo. Ciao. Ciao Ale. Ti saluta Nicoletta e poi abbiamo Giada Pasquali. Ciao. Che Giada sarebbe chi nel musical? Sophie. Sophie? Una delle due Sophie. Ci sento pochissimo. Una delle due Sophie. Una delle due Sophie. Ecco, adesso ti sento. Ok. Scusami. Poi c'è Laura Tonnarelli. Ciao. Che sei tu? Rosy. Rosy. Abbiamo Erika Zanchetta. Ciao. Tu sei? Sophie. L'altra Sophie. L'altra Sophie. E Sergio Buson, che è le tastiere. Ciao. Ciao. Abbiamo Adriano Pellegrini alla chitarra. Se vuoi darci un... Ciao. Ciao. Martina Pinton, invece, sei... Sì, ciao. Sei tu, sei? Sono io. Sì, sono la coreografa, nonché Ali. Ali. Sì, sì. Una delle amiche, insomma. Sì. E poi c'è Elisabetta Nalon. Ciao a tutti. Tu sei? Donna Sheridan. Voilà. Poi abbiamo qui in studio, c'è in regia, c'è Antonella Scambia con me. Ciao Antonella, poi vediamo, vieni a salutare, vieni, fatti sentire la tua voce. Ciao a tutti. Puoi venire anche più vicino. Vieni. Ciao a tutti e ciao Agostino e grazie dei complimenti che mi dai sempre. E poi abbiamo Giovanna che... Tu cosa sei? Tu sei? Regia. La regia, aiuto regia. Beh, quindi abbiamo un cast notevole questa sera, vi ricordo, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita, le nostre frequenze che non dovete prima, 88.700 per la zona di Padova e poi 94.600 per la zona di Venezia soprattutto. E inoltre i nostri numeri telefonici con in studio allo 049-875-6423, mentre, importantissimo, segnatevelo, c'è il giochetto, quindi durante la trasmissione, e cioè chi indovinerà la domanda che dopo Cesare o chi per essa, insomma non so, vi farà. No, Cesare non la fa mai, non la fa mai la domanda, sempre una delle ragazze. Però stasera, hanno già deciso. Stasera abbiamo modificato un po', se non sbaglio. Sì. Questa sera, visto che i biglietti sono pressoché esauriti e perciò sono due biglietti molto importanti, li diamo, facciamo solo una domanda e diamo due biglietti alla stessa persona. La domanda sarà difficilissima perché e la faremo un po' più tardi. Perfetto. Anzi, la faremo senza dirvi quando, così dovete ascoltare tutta la trasmissione. Bene, molto bene. Allora, il nostro numero per mandare i vostri sms è il 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033. Siamo su Facebook e siamo su Facebook due volte. Una è semplicemente con il nostro nome, Blu Radio Veneto. L'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, che come ricordo non ci sarà dopo di noi perché ha cambiato giorno. Ci sarà il martedì, ma insomma questa sera c'è Renato Ferro con la sua heavy metal. E poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare, basta cliccare su Ascolta la radio in streaming 24 ore su 24, siamo assolutamente in diretta e poi troverete tutte le notizie tra recensioni, notizie anche di qualche avvenimento insomma, che succede nella nostra regione e non solo ovviamente. Dobbiamo sottolineare una cosa, che mamma mia, il musical è stato scritto dalla drammaturga inglese, molto importante e fondamentale, Katherine Johnson, vero Cesare? Certo. È fondamentale perché lei ha scritto e anche riadattato il film sempre su questa. Da questa base, da questo canovaccio, poi basato sulle musiche degli ABBA, si è sviluppata questa storia, molto divertente, qualche volta un po' meno divertente. Sì, diciamo noi praticamente abbiamo detto che è il primo musical che facciamo dove non muore nessuno, esatto. e dove non ci sono persone che si picchiano, perché negli altri due musical succedeva proprio questo, perciò per noi in realtà è molto molto divertente, molto questo divertente. Musical. Basato su questo e basato anche sulle musiche degli ABBA, sì. Che una conoscenza importante e fondamentale. Però il musical è in due atti, ecco, l'idea di fare Mamma Mia, come si è sviluppata al di là di tutti i discorsi storici? La difficoltà di fare Mamma Mia, dobbiamo tastare sul campo, perché? Rispondo io, cioè, no, se vuole rispondere. Risponde Cesare e poi anche gli altri. L'idea di fare Mamma Mia, forse anche con la Martina, se sapevamo che era così, così articolato, così difficile, non so se l'avremmo fatto all'inizio. No, l'idea è venuta perché anche vedendo il film c'era piaciuta la storia, e proprio solo per quello, cioè, era allegra, divertente. Era allegra, esatto, divertente, esatto. E le canzoni ovviamente sono molto conosciute. Il discorso è questo: le canzoni sono molto conosciute. Sì. C'è una difficoltà, c'è un rischio, essendo le canzoni molto conosciute. Cosa dici? Sì, secondo me c'è un rischio sia per il fatto delle canzoni, e anche per il fatto che, esistendo già un musical, esattamente. C'è un paragone, può esserci un paragone. Musico che ha avuto un successo planetario. Esatto, dobbiamo sottolineare, esatto, questo. Sì. È ancora in cartellone, quindi sì, una cosa incredibile. Io le tengo in sottofondo. Dimmi. Perciò cioè, noi siamo partiti con questa idea proprio di voler fare un musical divertente. E sapevamo forse già che avevamo degli elementi che potevano starci bene in determinate parti. Il numero di donne, dai. Esatto. Noi raccontiamo, raccontiamo velocemente la trama, giusto, un momento per gli ascoltatori. E infatti, come ha detto la Martina, giustamente, volevamo, siccome il problema più grosso per le compagnie è trovare uomini. C'è Alessandro che fa il mezzo uomo. No, faccio l'uomo intero che è mezzo uomo. Le fa uno e mezzo, allora. E perciò abbiamo detto: ok, allora cerchiamo un musical dove la parte fondamentale sia fatta da donne. Certo, certo. Ecco, e siccome la protagonista si chiama proprio donna, appunto. Chi racconta velocemente la trama? Una delle ragazze, dai, sicuramente. La protagonista. Che carini, ma non era un musical di coprotagoniste? Scelto te come protagonista. Vai Elisabetta. Va bene, ok. Tanti anni fa Donna Sheridan in un'estate conosce tre uomini diversi, diciamo che se ne innamora. Attualizzato ad oggi ha una figlia di 20 anni che si sta per sposare con Sky, l'amore della sua vita, però vuole arrivare all'altare accompagnata dal papà e non sa chi sia questo papà. Quindi, sbirciando tra le vecchie cose della mamma, scopre un diario, trova questi tre nomi, Sam Carmichael, Bill Anderson e Darry Hevybright, li invita all'insaputa di chiunque al matrimonio e al giorno prima del matrimonio si presentano tutti e tre sull'isola. Ovviamente spera di tenere nascosta la cosa alla mamma, ma la mamma, entrando in un ambiente insomma di questo albergo, bed and breakfast chiamiamolo, ambientato in Grecia ovviamente, li vede tutti e tre e da lì si susseguono una serie di cose, perché sì, infatti, come donna invita le sue vecchie amiche Rosie e Tania al matrimonio della figlia, allo stesso modo Sofia ha invitato Lisa e Ali, sono le damigelle, e insomma è un incontro e scontro tra non vi voglio, cosa fate qua, da parte di donna, e Sofia che li trattiene perché vuole che siano presenti. lo scontro anche di donna con i precedenti, diciamo, amori, fino alla fine, quando al matrimonio... Sorpresa. Infatti, non venite a vedere lo spettacolo e capite che succede. Beh, penso che il film sia stato visto. Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini, puntini. Sono curioso di scoprire come avete fatto quell'isoletta dove vanno a sposarsi. vedrete quell'eremo così bellissimo, tra l'altro. Vi porto il saluto di Cristi che vi sta ascoltando. Ciao Cristi, che penso sia la Giorgia. Ciao Giorgia. Sì, che Giorgia tra l'altro è anche la truccatrice nel nostro spettacolo, ecco, penso nonché sia... anche costumista, dai. Sì sì, ha salvato certe cose nostre, proprio. Certe nudità. E a proposito di costumi, dobbiamo sottolineare che gli ABBA hanno sempre... I costumi di scena degli ABBA sono stati sempre molto particolari, molto colorati, quindi anche quello è un motivo in più per metterci in competizione, possiamo dire così, certo, tra punti, tra virgolette. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, infatti... Non saremo da meno. Quello è bello anche vedere anche questo, praticamente, anche quello è importante in un musical come questo. Certo. Sì, sì, sì, beh, è ovvio che bisognava adattarlo al teatro, però i costumi dovevamo farli abbastanza simili, cioè non potevamo farli in un altro modo. No, assolutamente, dovevano essere così. Sì. Saluti anche da Antonella, scusate, da Martina Scandola, cioè, ormai c'ho in mente solamente Antonella stasera, Martina Scandola che ci sta ascoltando dalla provincia di Mantova, se non sbaglio. Ciao, ciao Martina. Ciao. A questo punto io direi di far sentire, insomma, le vostre voci. Ci siete? Cosa ci fate sentire adesso? Partiamo ovviamente partiamo, direi di partire con la canzone che dà anche il titolo al esatto, proprio Mamma Mia. Allora, questa è fatta esclusivamente in acustico. Sì, quindi, l'altro volevo dire una cosa che non abbiamo detto, una cosa molto importante, che la maggior parte dei testi li abbiamo tradotti noi e in italiano, e perciò sono testi in italiano fatti totalmente da noi. Una cosa velocissima dal punto di vista discografico, Mamma Mia è stato appunto un successo molto importante. Dicono che in Australia quasi tutti i cittadini australiani hanno comprato Mamma Mia, secondo le statistiche, quindi all'epoca. Però se è finita tra noi c'è di certo un perché. Sono stata, lo sai, ingannata da te. Ma sai che c'è, non imparo mai insieme a te. Che mi capita non lo so, prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento le campane suonare, parli e mi sento sempre morire. Mamma mia, ci risiamo ancora, mamma, sento che ci casco, mamma mia, non resisto più, mamma, so che ci ricasco. Io ti ho lasciato andare, tu mi hai spezzato il cuore, mai mai, giuro non ti so scordare, mamma mia, ora io lo so, mai mai, non dovevo farti andare. Ero triste, lo sai, arrabbiata ancor più. Tu capire non puoi che è ferito di più. Ma sai che c'è, non imparo mai insieme a te. Che mi capita non lo so, prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento le campane suonare, sento sempre morire. Mamma mia, ricomincerà, mamma, io non ti resisto. Mamma mia, l'ho vissuto già, mamma, come un film già visto. Il cuore si è spezzato da quando mi hai lasciato, perché te ne sei andato via. Mamma mia, ora io lo so, mai mai non dovevo farti andare. Un applauso. Siete così anche sul palco, così scatenate? Ah, di più. Questo pezzo è musicalmente molto bello, adesso possiamo parlare anche col musicista, ha un ritmo continuo, martellante, che ti entra subito in circolo, vero? Cosa dici? Sì, è un tipico ritmo che andava un po' di moda negli anni 70. Esattamente. Molti complessi hanno fatto una caratteristica di questo ritmo. I più evidenti sono forse i Supertramp. Esattamente, quando, esattamente. Quando c'è una vicinanza con i Supertramp, secondo me, cosa dici? Sì, perché era i Supertramp anche specialmente sotto la guida di Roger Olson, che aveva questa caratteristica del martellato. È nel martellato, esattamente. E dei coretti, diciamo così. Effettivamente rispecchia molto l'epoca. E gli ABBA hanno confezionato molto bene a suo tempo, al loro tempo, insomma, questo tipo di prodotto. Esattamente, gli ABBA hanno confezionato un prodotto perfetto e la drammaturga inglese ha confezionato un prodotto perfetto sulle musiche degli ABBA. Dobbiamo sottolineare questo, perché non era stato facile, penso, riprendere le musiche degli ABBA e fare un testo teatrale in due atti, ricordiamo. Sì, in due atti. Dobbiamo precisare che Katrin Johnson ha scritto, come dicevi tu, appunto, tutto questo con la collaborazione soprattutto di Björn, il chitarrista degli ABBA, che attualmente anche lui stesso con Benny, quell'altro, fa ancora teatro, e lui ha detto, guarda, all'epoca in cui stava nascendo il progetto, gli ha detto, guarda Katrin, tu non pensare soprattutto, diciamo, all'inizio alle canzoni degli ABBA, mettiti in testa un po' la storia, poi le canzoni degli ABBA verranno da sole, e così poi è stato. Ovviamente Katrin ci ha messo, diciamo, la struttura della storia, Björn ci ha messo il lato, il suggerimento musicale. Del lato musicale. Però è una struttura della storia molto inglese, secondo me, nonostante tutto. Cosa dici? Molto inglese. D'altronde gli ABBA comunque, diciamo, sono stati molto inglesi anche loro e puntavano ad essere inglesi, anche se venivano dal mercato scandinavo. Certo. Però bisognava fare qualcosa per, diciamo, per sconfinare, e l'unica cosa era puntare nel Regno Unito. Sì, effettivamente. Non è riuscito subito, poi ce l'hanno fatta, e anche loro a loro volta poi sono diventati inglesi. C'è un'enciclopedia che, se gli spettatori più vecchi un po' ce l'hanno, che è uscita nel 76, in Italia nel 77, in edizione italiana, che però sottolinea quanto all'inizio forse gli ABBA non erano esattamente pratici della lingua inglese, e quindi qualche piccola inesattezza, diciamo, c'è a vedere un attimo il testo integrale. Poi ovviamente col passare del tempo, l'esperienza, il successo, cambia tutto. Certo. Beh, questo era importante. No, però posso dire una cosa? Dai, io apro una parentesi, perché l'enciclopedia in realtà è Sergio. Non... detto anche la Treccani della musica. Ha fatto bene, perché ha dato proprio la spiegazione efficace, giusta, del modo di suonare, di interpretare i pezzi degli ABBA e del modo trainante con cui la musica è stata fatta. Vai Sergio. Dimmi. Dirti un'ultima cosa che forse tu ricorderai. Grazie. Dimmi. Tu, come me, come gli spettatori un po' più anziani, si è messo anche lui, però, per cui siamo ok. Dimmi. Allora, siamo tutti la stessa cerchia. Okay. Sì. Okay. Parlate allora, per voi, per piacere. Perché tu sei giovane, vero? Sì. Allora, c'era, dunque, come succede sempre, diciamo, i complessi d'oltre confine in Italia debuttano sempre dopo. Vero. Se gli ABBA hanno vinto l'Euro Festival nel 74 in Waterloo, sì, in Italia sono arrivati nel 75. E c'era una trasmissione radiofonica. C'erano due trasmissioni radiofoniche che forse gli spettatori un po' più anziani ricordano: Gran Varietà, condotta da Johnny Dorelli, sì, Batto 4, sì, condotta da Gino Branieri. Esatto. E i quali, quando sono arrivati gli ABBA, a parte che erano due trasmissioni virtuali, che oggi definiremmo così, costruite in studio, non, certo, erano proprio dal vivo, esatto, sono stati annunciati come il complesso che si legge uguale sia da destra che da sinistra. Hai ragione, è vero questo. È una cosa verissima. Okay. Beh, insomma, il ghiaccio è stato rotto e adesso sì, ci fanno ancora qualcosa di questo musical. Cosa ci fate adesso? Adesso facciamo la canzone che apre e chiude lo spettacolo. Hai un sogno? Esatto. Eva Dream. Esatto. La canta Giada, una delle due Sofi. Ok, prego. Mm. sogno è un canto che mi aiuterà anche con te. Se credi nei tuoi sogni, un futuro avrai. Guarda il tuo domani e non ti pentirai. Negli angeli io credo, sono qui al mio fianco ed io so che negli angeli io credo, c'è del bene sempre intorno a me. E penso che sogno in me e penso che ho un sogno in me. Ho un sogno in me. Dobbiamo studiare lo sforzo di tradurre in italiano le cose, perché non è mica semplice, è vero, certo, Cesare? Sì. È una cosa molto importante, sì. Questa. Tutti sappiamo, possiamo cantare i pezzi in inglese che ricordiamo, ma tradurli in italiano, adattarli in italiano, sì, non è una facilità, no, assolutamente. Lo sforzo è stato notevole. Lo sforzo è stato notevole, però abbiamo all'inizio della nostra carriera, veneranda carriera, eravamo convinti di non dover tradurre nessun tipo di canzone, perché l'integralismo della lingua. Invece poi ci siamo resi conto che traducendole venivano percepite meglio anche dal pubblico, certo, e anche d'accordo. Noi facendo lo spettacolo riuscivamo a interpretare meglio la canzone, perché per quanto uno possa conoscere alla perfezione l'inglese, cosa che per esempio io e Ale sappiamo benissimo, in realtà è molto più complicato, certo, interpretare una parte. Ma anche più complicata per la già interpretare in inglese, assolutamente, certo, decisamente. Dal punto di vista musicale è un pezzo molto romantico, una ballad, possiamo dirla così, Sergio, secondo te? Sì, è una tipica ballata, come dire, gli Abba, questa canzone è stata scritta verso la fine, diciamo, sì, un po' della loro carriera, che erano un po' in declino, leggermente. E come tutti i declini influenza il loro modo di fare, di scrivere, di ispirarsi e la musica che poi ne fanno. Avevano perso il loro tipico sound, Abba Sound, come si chiamava a quei tempi. Sì, vero. Che c'era il loro tecnico del suono che ormai li aveva abituati troppo bene, ed erano diventati più anche un po' più, diciamo, più avvicinabili, più normali. E fra le varie cose che hanno fatto, che hanno cominciato un po' a sperimentare, hanno fatto anche questa cosa greca, diciamo sì, così. Esattamente. Mi stai guardando? No, sto sentendo le spiegazioni di Sergio, sono notevolissime, perché riusciamo a capire loro in modo avevano semplice il perché certi pezzi. Ma lui aveva sì, non vedeva l'ora di vederti per parlare degli Abbas. Allora, Cesare, però comunque adesso parliamo insomma di questa compagnia, di questo musical, nel senso delle persone. Io volevo sentire le voci anche di queste attrici. Infatti. Ecco, per esempio abbiamo appena poc'anzi sentito Giada, mi rivolgo proprio a te, Giada. Che differenza trovi tra il film e il musical nel personaggio che tu fai, prima di tutto? E secondo, che difficoltà hai trovato, insomma? Posso dire una battuta? Certo, certo. La ragazza è bionda e io sono mora. Anche l'altro Soppi è mora. Quindi, insomma, è un po' difficile interpretare una ragazza magari che ha 20 anni e tutta spensierata. Nel film lo fa molto bene, noi cercheremo di fare questo. Non ci sono state particolari difficoltà. Viene tutto un po' naturale quando si crea una buona sintonia di gruppo e si fanno tutti la stessa cosa. Quindi non hai avuto particolari difficoltà. Quanto ci hai messo a imparare questo personaggio? deve ancora imparare. Mettermi bene in testa certe cose. No, sì. Hai ancora 48 ore. Svariate centinaia di secondi prima della prima. No, è una cosa che viene un po' spontanea, più volte la provi, più volte fai le battute con i tuoi colleghi, più ti entra il personaggio. Sì. Certo. Ma è tuo o è suo il personaggio? Cioè, ci metti del tuo o hai copiato praticamente? Metto molto del mio. Metto molto del tuo. Sì. Sì. Laura, invece, tu sei? Rosy. Rosy. E a te le stesse domande, che difficoltà hai avuto, insomma? Ma sinceramente non troppe. Rosy è un tipo piuttosto schietto, piuttosto diretto e mi assomiglia molto in questo lato, per cui sì, è stato piuttosto semplice da questo punto di vista immedesimarsi in lei. Ecco, quindi direi che è un tipo piuttosto così, dinamico. E simpatico, poi tra l'altro anche nel film, almeno io l'ho visto nel film, insomma. E vedremo di fare ancora meglio noi, dai. Io e anche Francesca, che sicuramente ci sta ascoltando, che è l'altra Rosy. Ciao Franci. Rosetta. A proposito, Cesare, quante persone girano intorno a questo musical? Allora, diciamo che siamo una trentina tra attori, ballerini, e poi ci sono altre persone tipo Giovanna che cura la regia proprio nel teatro. Matteo, ci sono 35 persone circa, saremo più o meno. Quindi due regie, Cesare, praticamente. No, praticamente Giovanna, cosa cura? Praticamente la regia proprio fisica, la regia fisica, i microfoni, l'apertura microfoni, le basi, poi ci sono le luci, perché io essendo recitando non puoi fare questo o quell'altro. Esatto. giustamente. È una cosa che dobbiamo sottolineare, secondo me. Sì, il musical è stato, il film o il musical è stato un traino, però la storia l'avete rimodellata voi, siete voi i protagonisti, cioè non ci si deve, secondo me, sempre attaccare al musical. Esatto. Che c'è stato, ci si deve attaccare al musical che fate voi, questo. Esatto. È importante, secondo me, del discorso. No, secondo me anche il fatto di trasportare un personaggio che magari è scritto in un copione nel tuo modo di essere e non fotocopiare quello che può essere, perché alla fine diventa un, non lo so, un imitare, un'imitazione, che poi è meno vero quando imiti qualcuno, è cioè, vero, il pubblico se ne accorge subito. E donna Elisabetta lo fa da Elisabetta, non fa da Meryl Streep. Sì. E quello è importante, sì, sottolineare. La gente deve sapere questo perché lo sforzo è quello di una compagnia, di creare un personaggio, sì, ma crearlo, rimodellarlo come volete voi. Come infatti, fra di noi. Ma sì, è importante. Ma infatti il bello di avere il doppio cast, che poi non tutti hanno, non c'è il doppio cast su tutti i personaggi, è proprio vedere come ognuno interpreta lo stesso personaggio in maniera diversa. È vero, quali, verissimo. Cioè, cambia totalmente quali. Il messaggio che viene lanciato anche al pubblico, certo, secondo me. Sì. Erika, tu invece? Ciao Agostino. Ciao Erika. Io faccio Sophie come Giada e mi stavi proponendo la stessa domanda? Sì, beh, certo. Non sei giudice in Tegel. No, in questo caso no. Proprio il contrario. Devo dire, inizialmente ho trovato un po' di difficoltà nell'immedesimarmi nel personaggio, come ben sa Cesare e Martina, perché il passaggio da quella che era la Satin di Moulin Rouge a Sophie di Mamma Mia, insomma, c'è una bella differenza, ecco. E quindi, però adesso devo dire che ci ho lavorato e spero che i risultati si vedano. E me lo sento molto più mio, mi sento, quando me lo vivo, più spensierata, un po' più ragazzina, ecco, di quello che in realtà sono, perché in realtà ho 20 anni e io ne ho 26, e quindi dai, mi tocco qualche proprio anno. Vecchissima, dai, anziana. Grazie da parte di tutte noi, veramente, Erika, grazie. Delle donne e le sue amiche. Ecco. E in realtà, questa sera sono qui in veste di Tania. Mm-hmm. E quindi saluto Elena Maci, che è a casa, e che è la Tania vera, del nostro musical. Niente a che vedere, insomma, con il giudice di Life in Plastic. Devo dire che proprio niente a che vedere. Molto persona. Più dolce, Sofì. Io ne approfitto, visto che stiamo parlando con Erika Zanchetta, che spezzo una lancia in tuo favore, Erika. Oh, wow. Se qualche gruppo ha bisogno di una voce femminile, no, è la verità, tranne il martedì e mercoledì, grazie. C'è lei che è disponibilissima, non sto scherzando, è pure sacrosanta verità. Lei veramente piacerebbe avere un gruppo tutto suo dove cantare, suonare, insomma, cosa ti piacerebbe fare? Rock? Pop? Ma in realtà mi piace di più, sì, ma anche il rock, perché ho già fatto pezzi rock con un gruppo, però anche il jazz o... Poi io ti adoro, Erika, piano perché mi hai fatto quella canzone di Gesù Cristo Superstar. Lo so che tu adori. Va bene. Volete che ci riposiamo un pochino? Sono le 21:42, facciamo ascoltare qualcosa dal disco, nella voce di Meryl Streep, o volete suonare ancora voi qualcosa? Come volete voi? Mettiamo un po' di roba del disco e poi facciamo noi. Io ho scelto quella canzone che parlavamo, Cesare, sai che, visto che si parla di ballate, e c'è questa scena, insomma, chi ha visto il film lo sa, che Meryl Streep canta a, come si chiama l'attore che non mi ricordo mai, Pierce Brosnan, bravissimo, e gli dice appunto che il vincitore prende tutto, the winner takes it all, Abba, ma questa volta è Meryl Streep. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Are standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it. Simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show stay in love. The game is on again. The lover. Makes me feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it. Lover or a friend, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 21:48, Agostino Spolaore, Maurizio Calzavara qui a Blu Radio Veneto, ma soprattutto in compagnia della compagnia, il giro di parole, che si chiama Mouge, che ci sta presentando il musical che si terrà sabato e domenica per due repliche, e cioè Mouge, appunto, cioè il musical è Mamma Mia. Maurizio, tu dovevi fare una domanda? Sì, no... ma prima facciamo una cosa molto importante, vero Cesare? Sì. Ah, vuoi fare il giochetto? Esatto. diciamo questa domanda, vediamo chi la indovina. La fa Laura. Con voce impostata, sennò si capisce che sembro Rosy e non va bene. Allora, Agneta, prima di far parte degli ABBA, era già famosa per aver recitato in un musical. Quale? Le opzioni sono Jesus Christ Superstar, Hair, The Rocky Horror Show e Grease. Se vuoi ripeterla. Agneta, prima di far parte degli ABBA, era già famosa per aver recitato in un musical. Quale? Jesus Christ Superstar, Hair, The Rocky Horror Show, Grease. Poi mi lasci il tuo numero di cellulare che ti invito, ti invito qui a trasmettere con noi. Hai una voce bellissima, complimenti sinceri. Grazie. Allora, il numero da mandare i vostri sms è il 346 23 20 033, lo ripeto, 346 23 20 033. Si vincono due biglietti, giusto Cesare? Sì, due biglietti per qualsiasi, possono scegliere addirittura che data assistere allo spettacolo. Introvabili. Esatto. Quindi è quasi una reliquia, insomma. Sì. Benissimo, allora parliamo di una cosa fondamentale nella musica degli ABBA, è fondamentale nel musical, sono i cori. I cori li ha arrangiati tutto Adriano, il nostro chitarrista, o quasi, dai. Dimmi le difficoltà e praticamente il progetto con cui sei andato avanti. Allora, la difficoltà maggiore è convivere con 5, 6, 7... Adriano, c'è gente che, non so, farebbe salti mortali per avere a che fare con noi. Devo ancora riprendermi. Non è che... Allora, a parte gli scherzi, volevo dire due o tre cose appunto sui cori. Beh, i cori sono stati difficili perché tradurre in italiano, quindi non corrispondeva la musica alla metrica. Alla metrica. Abbiamo dovuto arrangiare un... Parlami però, vicino al microfono, sì, per cortesia. La cosa più interessante è che io, che sono del 58, non mi vergogno, quindi sono passato... C'è qualcuno più vecchio di te qua dentro? No, e assolutamente, dire... assolutamente non ti devi vergognare. C'è qualcun altro che è del tuo anno. Ci mancherebbe altro. Che ho attraversato gli anni 70 e quindi gli ABBA li ho vissuto musicalmente. Io amo la musica classica, amo il jazz, amo tutta la musica. E a quei tempi gli ABBA erano visti come un gruppetto, una musichetta. È vero, un gruppetto, sì. E io ho sempre passato il contrario. Poi analizzando veramente gli spartiti per i cori, vedi che musicalmente è semplice, ripeto il termine semplice, ma non banale. E io ritengo che le cose più belle sono quelle semplici, quelle che arrivano direttamente. E quindi ho apprezzato ancora di più questa musica, diciamo, ecco. Quindi tutto qua. Ci sono state delle difficoltà da superare, giustamente, per... Come sempre, no, è logico. Le difficoltà più grosse è convivere con loro. Ah. Non c'è niente da fare. Però le amo e non... Bravo, bravo. È una dichiarazione questa, Io devo fare una precisazione, se mi consentite. Credo che una persona abbia chiamato per dare la risposta, ma invece di mandare l'SMS ha chiamato. Purtroppo è caduta la linea, insomma, non so, ma non dovete chiamare, dovete semplicemente mandare un SMS. Quindi il 346 23 20 033 vi serve per mandare appunto il vostro messaggio. Se vuoi ripetere... Sì, ripeti pure, dai. La domanda? Sì, certo. Agneta, prima di far parte degli ABBA, era già famosa per aver recitato in un musical. Quale? Jesus Christ Superstar, Hair, The Rocky Horror Show, Grease. Allora è arrivato già un messaggio, ma non è giusto, quindi già lo posso già... Riproviamo. Mi sa che stavolta Cesare hai fatto... Chi è che ha fatto la domanda? Tu? Lui, proprio Cesare. Vabbè. Comunque, vi do posso dare un aiuto? No. Che Agneta è la bionda. Vabbè, capirai che aiuto che hai dato. Magari non lo so, per qualcuno potrebbe essere un aiuto. Ale, parliamo un po' con te. Insomma, sì, eccomi qua. Un maschietta, insomma, giustamente. Chi sei, cosa fai nel musical? Io sono Sam Carmichael e faccio uno dei tre papà, l'architetto per la precisione. Quello che, vabbè, insomma, quello che ha costruito, no, che ha progettato la taverna. E... Sì, sì, sì. Adesso mi ricordo vagamente. Quello della barca, insomma. No. No, l'altro? No, Pierce Brosnan nel film. Brosnan. Ah, io pensavo, avevo in mente... 007, praticamente. Sì. Esatto. Ok, ok. E quindi? E quindi, beh, non è stato facile per me entrare nel personaggio, perché non... Di solito mi aggrappo a qualche esperienza e non ho figli, per cui... Non è neanche architetto. Non sono neanche architetto, infatti Cesare a una prova mi ha detto: tu devi procurarti gli attrezzi dell'architetto. E io ho detto: ma quali sono gli attrezzi dell'architetto? E poi mi sono procurato una squadra e ho provato a vedere, insomma, se il personaggio veniva meglio oppure no. È andato bene. È andato, insomma, dai. Ma tu sei già esperto di musical, giusto? Esperto, hai sì. Un curriculum. Io ho un curriculum. io sono l'unico professionista, ecco, qui. Sì, esatto. sono l'unico che vive di questo. Nonché percussionista, anche a volte. Sì, giusto? A volte percussionista, a volte matrimoni, piano bar. Tutto. Fratello di Massimo. Fratello di Massimo. E di Nicoletta. A proposito di Nicoletta, io, visto che mi avete dato la parola, approfitto per fare gli auguri a mio nipote, che compie proprio oggi 16 anni. A Federica, Fede, tanti auguri, scusa se non sono venuto alla festa, ma siamo in diretta, non siamo registrati, sono qua. Non posso essere in due posti contemporaneamente. Sono le 21:55, quindi siamo assolutamente in diretta. Scusa, ti ho interrotto, Alessandro. No, diciamo che... Facciamo anche, molto... anche noi, a parte nostra, tutti gli auguri, giusto? Facciamo... Ce l'ha cantato un happy... abbiamo qua il jukebox all'idrogeno. Aspetta che ti alzo, ecco, vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Federica, tanti auguri a te. Ecco, se volete... E qui scatta il perdono, ecco, immediato. Minimo. Auguri anche da parte di tutta Blu Radio Veneto a Federica. Dove eravamo? Un altro maschietto non c'è per fare domande? O c'è Cesare? Che invece... Cesare è uno dei papà. È l'altro. Quello della barca. Ah, è quello della barca. Io sono il barchista. Quello che gira nudo, insomma. Sì. Io girerò molto vestito anche per il pubblico. È bellissima, quella scena, comunque. Quando lui gira nudo, sì. Simpaticissima. Dimmi, ti ho interrotto, Cesare. No, anch'io faccio uno dei tre papà. Forse la mia parte è un po' più semplice, nel senso che è abbastanza uno zingaro e io mi sento abbastanza nella parte un po' selvatico, insomma, ecco come sono io. E diciamo che, essendo io Ale e anche gli altri due e anche David Cippo che fa il terzo papà, Harry Bright. Esatto. E poi anche Fabrizio che fa il sostituto di Ale, e diciamo che abbiamo più o meno tutti la stessa età, abbiamo superato i 40. C'è chi li ha appena io ne ho 40 e perciò diciamo che per poco, ma potremmo avere una figlia di 20 anni e diciamo che secondo me siamo riusciti anche a fare abbastanza bene il nostro personaggio. Diciamo che ci sono alcune scene che fanno anche abbastanza ridere, siamo anche molto ridicoli. Ridicoli perché... Non solo voi. Ho capito, quindi sei parte in causa anche tu, insomma, nel cast, sì, oltre, esatto, ad essere regista. Quanto ci hai messo a organizzare questo musical? Allora, abbiamo iniziato il 17 gennaio di quest'anno. Quindi è freschissimo. È freschissimo, sì. Abbiamo iniziato con la presentazione del musical già dicendo anche la data di quando l'avremmo fatto, perciò eravamo molto molto molto ligi e molto convinti di poterlo fare in quelle date. E, come, come abbiamo detto in questi ultimi giorni anche con Martina, forse è il musical dove, dove siamo arrivati anche, anche con più anticipo ad, averlo, ad averlo completato rispetto, rispetto agli altri che abbiamo fatto. Un record in tutti i sensi. Esatto. Perché abbiamo, siamo, siamo già quasi, quasi a punto. In realtà ci sono, ci sono, di solito ci trovavamo lo stesso giorno a cambiare qualche passo, qualche scenografia da sistemare. Questa volta siamo pronti, dai. Questa voce che sentite è quella di Martina Pinton, che oltre ad essere direttrice artistica assieme a, a Cesare è anche la coreografa. Sì, sì, sì, sì. Cosa ci hai messo di tuo in questa coreografia? Beh, insomma, diciamo che la cosa più difficile è portare persone che del ballo proprio non se ne, non se ne intendono a muovere qualche passo a tempo. Anche perché è molto ballato, mamma mia. Sì, sì, sì, completamente. Ma poi vi buttate in acqua anche voi o no? No, diciamo ponte, no? Allora, allora il discorso è questo. Abbiamo Ale, cioè, Ale, Ale che suda produce abbastanza, perciò diciamo io mi butto sul pubblico. Vabbè, come, io una, sono come una rock star, Ale. Esatto, rock star, mi slime. Raccomando, non toglietevi perché mi faccio male, perché poi insomma attenzione a chi balla vicino a Ale che scivola. Antonella, Antonella balla con me. Su Vulevu. No, però devo dire che sono tutti bravissimi quest'anno. Sono proprio motivati, e soprattutto anche gli uomini, che di solito si vergognano, sono riusciti a andare oltre questo ostacolo. Ma ci hai messo molto a fargli capire cosa dovevano fare. Abbastanza, dai. Comunque sei contenta del risultato? Sì, sì, sì, quest'anno sì. E insomma, adesso abbiamo tenuto per ultima Sofì, se non sbaglio, giusto? No? Donna. No, donna, scusa, io sbaglio sempre, scusami Elisabetta. Nessun problema. Te invece, il tuo personaggio? Beh, ammetto la difficoltà, perché, cioè, innanzitutto... Tu sei Meryl Streep, insomma. Sì, mi devo confrontare con una, con un personaggio, con un'attrice del genere, per cui... Non è facile, soprattutto, interpretare una mamma di una figlia di 20 anni che si sta per sposare. Anch'io non sono ancora genitore, per cui è stato un lavoro molto forte a scavare in quello che è la mia esperienza di figlia per riportarlo a, al contrario. E anche rivedere più volte il film. Ti è come ispirata. Sì, sì, sì. Come lei riesce ad essere a togliere la drammaticità della realtà e portarla nel, non dico nel ridicolo, ma esasperarla al contrario, in qualcosa di divertente. Cioè, bravissima, è un mostro come attrice, veramente. Meryl Streep. Sì, sì, è grandiosa. Poi abbiamo scoperto che è anche una bella, brava cantante, insomma, quindi ha sì, una bella voce. Sì, sì, sì, infatti, ma anche estensione, perché cioè, anche io mi devo confrontare con delle tonalità che vanno da un apice all'altro e non è poco, insomma. Ma tu canti anche di tuo, di solito? Sì, io c'è dico sempre, non ho un gruppo, sono nata con alcune persone, insomma, come cantante, ho imparato a recitare e poi Martina, con tanta buona anima, ha insegnato a farmi quei piccoli passi di cui diceva prima, insomma. E va bene, e io a questo punto direi, Maurizio, se tu sei d'accordo, di far sentire qualche altro pezzo sì, musicale. Sì, sì, assolutamente, perché dobbiamo sentire, perché il musico è fatto per sentire. Cosa ci propone? Chiaramente, cosa avete deciso adesso? Allora, adesso faremo, partiamo con un pezzo recitato che si attacca poi con la canzone che faremo, che sarà Dancing Queen. Praticamente vi racconto in breve, tanto per farvi capire la scena. Ci sono le amiche di Donna che si sono appena sistemate nella loro camera. Arriva Donna, gli dice che sono arrivati questi tre presunti padri. È triste, loro cercano di consolarla. E ecco, praticamente partiamo da questo punto. È suo padre. Il padre di chi? Di Sophie. Vi ricordate che ho sempre detto che era Sam, l'architetto che è corso a casa per sposarsi? Ah, tipico uomo stronzo. Beh, veramente non sono proprio sicura che sia lui, perché sono stata con altri due uomini in quello stesso periodo. Donna Sheridan, che ragazza frivola! Ehi, perché non ce l'hai detto? Non pensavo che avrei mai dovuto farlo. Non immaginavo che tutti e tre si sarebbero seduti nel mio bar il giorno prima del matrimonio di loro figlia. Cosa? È il bar? Fammeli vedere! Non riesco a vedere nessuno! Donna, ma sei sicura? Dove sono? Certo che sono sicura! Credete che dimenticherei i padri di mia figlia? St. Carmichael, Bill Anderson e Darry Heavybright. Sì, Dio, perché sono saltati fuori tutti insieme adesso? È come un terribile scherzo del destino. È tutto molto greco. Loro sanno dell'esistenza di Sophie? Non l'ho detto ad anima viva. Voglio dire, perché sono qui a rovinare il matrimonio di Sophie? Credevo che non tenessi tanto a questo matrimonio. Ma non lo voglio che glielo rovinino. Non hanno il diritto di presentarsi così. Voglio dire, cosa hanno mai fatto per loro figlia? Donna, sii onesta. Non sanno neanche che esiste. Non hanno bisogno di saperlo. Ho fatto un faticoso buon lavoro a crescere Sophie da sola. Ed ora... ora sto per essere messa a capo da un'eiaculazione. No, senti, questa notte la zona è proibita ai maschi per la festa del nubilato, no? Domani io e Tania li porteremo a pesca. A pesca, per carità! Cos'altro suggerisci di fare con tre uomini? Antichi ricordi mi tornano in mente. Sì, sì, per voi è solo la risata di un minuto, ma sono io quella che è rimasta incinta. Penso di meritarmelo. Oddio, sembra di sentire tua madre. Oh no! Oh sì! Dov'è finita la nostra donna? La vita e l'anima delle feste, la cica del rock. È cresciuta. Oh! Ah. E allora decresci? Non hai fatto niente di cui vergognarti. Già. Arrivato già, pensa un po' dove si va, con la musica giusta ti scatenerai e un uomo troverai. È una notte da favola e qualcuno ti piace già. Abbandonati al ritmo, l'alba si farà, la vita scalpita. E quando capita, tu sei la dancing queen, giovane senza limiti. Dancing queen, tieni il tempo e scatenati. Bellissimo, bravi, bellissimo, bravi. E ancora bellissimo, bravi. Poi l'avete dato con tanta grinta, un pezzo fatto con tanta grinta, anche se un pezzo pop, ma con molta grinta, è quello che è il bello del discorso. Cosa dici, caro musicista? Ben due microfoni ti hanno dato. Dimmi, dimmi. No, posso dire di sì, anche perché lo hanno eseguito in condizioni non facili. Esattamente, quindi era un po' particolare la condizione. Si sono adattate molto bene, direi. No, sono state molto brave, poco da dire. Sì, volevo dire una cosa che non abbiamo detto all'inizio, che in realtà Adriano e Sergio, loro suoneranno dal vivo anche durante lo spettacolo. Ah, una cosa meravigliosa questa. Ecco, io volevo chiedertelo, infatti, avete tutto musica dal vivo? No, praticamente è una cosa un po' particolare. Abbiamo messo assieme delle canzoni, dei pezzi con le basi, al suonare dal vivo dei musicisti. Ci serviva il fatto, per quello che dicevo prima, che molte canzoni sono intersecate con il recitato, non potevamo usare delle basi in determinati momenti perché avrebbero avuto una metrica prestabilita che obbligava troppo gli attori a dover falsare quello che poteva essere recitato. È una cosa secondo me importante, la posizione di Adriano e di Sergio, dove saranno? Loro purtroppo siamo limitati, in realtà noi avremmo voluto metterli in scena, soprattutto Adriano, perché lui in realtà sarebbe un esibizionista, voleva vestirsi Adriano, non si sa ancora bene si vestirà cosa lo stesso faranno. Anche dietro le quinte. bene cioè dovrebbero loro in teoria da quella che è il disegno dovrebbero essere due greci autentici. Io volevo prendere parte in causa anche Antonella a questo punto, perché non l'abbiamo mai fatta parlare, giustamente, e fa parte anche lei del cast, giusto? Certo. Tu chi sei? Io faccio parte del corpo di ballo, sostenuto da Martina, che ci ha sopportato con tanta pazienza in tutti questi mesi. Io ballo. E poi c'hai anche il discorso dell'ufficio stampa. Tu ti sei occupata di promuovere questo musical e questa rassegna. E che difficoltà sta nel promuovere, nel contattare i vari quotidiani, eccetera, e quant'altro, insomma? Beh, è un lavoro di pubbliche relazioni, ma è il mio mestiere. Io poi faccio parte della vecchia guardia di Muge. Non ero alla riunione di febbraio del 2003, ma sono arrivata a marzo-aprile, praticamente. Quindi quando l'anno scorso Cesare mi ha chiamato dicendomi «Ho avuto un'idea, facciamo una rassegna di concorso per musical amatoriale», in quanto io già giornalista è venuto naturalmente il fatto che mi occupassi io dell'ufficio stampa della rassegna, che è un lavoro molto molto divertente, cioè vorrei lavorare tutti i giorni con del materiale del genere. E difficoltà, devo dire, non ne ho incontrate, questo significa che l'iniziativa è molto buona. Abbiamo sempre avuto, ci hanno sempre beneficiato di spazi, sia i quotidiani cartacei che le varie testate online, anche siti di settore che si occupano di musical. E tra l'altro, proprio a conferma che c'è un interesse nei confronti anche del movimento teatrale amatoriale, a conferma di questo c'è il fatto che quest'anno siamo riusciti ad avere anche un premio della critica. Noi abbiamo tre cronisti di punta del giornalismo culturale di Padova, li posso nominare? Certo. Caterina Cisotto del Gazzettino, Riccardo Cecconi del Mattino di Padova e Francesco Verni del Corriere del Veneto, che hanno accettato di venire a vedere gli spettacoli, e quindi abbiamo un premio in più. Quindi ci sono i premi di qualità che tu, Agostino, assieme agli altri quattro giurati avete dato, ma ci sarà qualcosa in più da dare alle compagnie, che immagino chi lo conquisterà, insomma, è una coccarda in più. Credo sia una grande soddisfazione questa, perché la dimostrazione è che quello che avete fatto tu e ovviamente Cesare e tutta quanta la compagnia Muge, senza far nome, insomma, perché siete tantissimi, quindi è giusto non nominarli tutti, perché poi altrimenti non sarebbe più finita, ma credo sia una grande soddisfazione da parte vostra per la serietà che avete avuto nel fare questa rassegna. Sì, riceviamo anche diversi complimenti, lo posso dire, lo dico anche adesso ai miei compagni di compagnia, in effetti anche da un punto di vista di addetti ai lavori, nonostante sia una manifestazione legata al teatro amatoriale, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per l'organizzazione, per la cura, e poi immagino anche Cesare e Giovanna lo sanno, perché poi sono loro che sono i vertici dell'organizzazione, anche le stesse compagnie sono state molto contente di interfacciarsi con noi, si sono sentite curate, coccolate, come raramente capita. Io... Sì, tra l'altro li voglio anche salutare tutte le altre compagnie. Te lo stavo per dire io, giuro. la compagnia del Villaggio, che sono i primi che hanno partecipato, che hanno vinto lo scorso anno e hanno partecipato con Peter Pan. E poi la compagnia La Giostra, che ha portato Mary Poppins, e poi Question Mark, che ha portato Life in Plastic, e gli ultimi, quelli di 15 giorni fa, che è la compagnia ABC, che ha portato il Re Leone e La Rupe dei Re. E li saluto tutti, ovviamente. E quindi apro una parentesi per quanto riguarda il gioco: ancora nessuno ha indovinato. Io direi, facciamo così, diamo anche un'altra domanda, questa è veramente facilissima, perché vogliamo che qualcuno venga venga a vedere questo spettacolo. Avete 15 minuti, quindi almeno, date... almeno due persone che vengono a vedere il nostro spettacolo le vorremmo, insomma. Vabbè ragazzi, questa però è elementare, cioè ABC proprio, eh. Mm-hmm. Mi fai quella voce di prima. Sì, mi calo nella parte, arrivo. Certo. Eh. Vuoi in sottofondo? No, no, tranquillo, okay. Ci penso io. Okay. E come si chiama il nome del gruppo di Donna? Donna and the Pussycats? Donna and the Ladies? Donna and the Dynamos? Donna and the Dancing Queen? Che dire, 347 è il tuo numero poi? ripetila. Il nome del gruppo di Donna: Donna and the Pussycats, Donna and the Ladies, Donna and the Dynamos, Donna and the Dancing Queen. 346-23-20-033, lo ripeto, 346-23-20-033, non telefonate ma mandate un semplice sms e vincerete questi due biglietti. Sceglierete voi quale spettacolo scegliere, cioè sabato sera o domenica pomeriggio o domenica sera, quindi meglio di così Cesare non poteva fare, la sua compagnia ovviamente. Infatti. Una cosa volevo chiedere di Cesare: cosa si sente prima di una prima? Questo è importante, tanta paura, non soltanto emozione, tensione, cioè, voglia allora, di fare. Ti dico la verità, si sente, almeno per quello che riguarda me, poi magari se vuoi sentire anche certo, gli altri. Adesso la tensione mia è rivolta, visto che è proprio la prima, sì, è rivolta tutto alla messa in scena prima di fare lo spettacolo, perché non avendo la possibilità di montare le scenografie, di montare le luci con anticipo e vedere il risultato finito, noi quello lo vedremo sabato pomeriggio, certo. E perciò per ora la tensione è tutta rivolta a dire: vediamo se tutto quello che abbiamo pensato dal 17 gennaio adesso è veramente come ce lo siamo immaginato in testa. Poi lo spettacolo c'è un altro tipo di tensione, ma quello secondo me è anche una cosa positiva che ci sia. I vostri attori, cioè, vi passate la parte prima oppure no? O l'avete mentalmente già pronta qua in testa? Ma ormai penso che la sappiano. Allora, memoria. Ce l'abbiamo mentalmente, però io magari... Una piccola ripassatina, te la dai. Sì, più che altro magari le battute che ho sbagliato in prova le ripasso. Ho capito. E c'è stato un sms, ma è sbagliato. Ah, non è possibile. Dai, ripetilo. Vai, ripetilo. Il nome del gruppo di Donna: Donna and the Pussycats, Donna and the Ladies, Donna and the Dynamos, Donna and the Dancing Queen. Un aiutino. Lo ripeto? Un aiutino. Donna and the Pussycats. Io calcherei un po'. Arrivo. Donna and the Ladies, Donna and the Dynamos, Donna and the Dancing Queen. Oh, così va bene. L'aiutino c'è stato, quindi... Allora, 3-4... Cosa? Sì, no, 346-23-20-033. Blu Radio Veneto, Agostino, Maurizio e soprattutto in Muge con questo musical. Mamma mia, mancano 15 minuti. Abbiamo ancora lo spazio. Per quante canzoni avete pensato di farci ascoltare? Allora, vorremmo farne una adesso e poi una come finale. Vediamo cosa facciamo. Certo, cosa ci fate adesso? Adesso ve la presenta Ale, visto che la canterà lui assieme a Donna Sheridan. Ma adesso cantiamo SOS, che è un po' la dichiarazione, diciamo, d'amore di Sam nei confronti di Donna, nel senso che Sam, quando arriva nell'isola, si vede che è interessato al posto, a come sono evolute le cose, però non ha mai avuto l'occasione di parlare con Donna a quattro occhi e di esprimere appunto il fatto che lui ce l'ha ancora un po' dentro, un po' gli rode questa cosa, ecco. Musicalmente, Sergio mi può correggere, è stato uno dei successi più importanti planetari degli ABBA. Sì, no, ti chiedo scusa perché stavo mandando l'SMS con la risposta. Ok, ci siamo adesso. Abbiamo una risposta vincente comunque. Oh, bene, è arrivato, bene, bene, benissimo. È arrivato in questo momento. Bene. E allora, se vuoi dirlo tu. Allora, vai. La risposta esatta è... Donna and the Dynamos. Diciamo anche la risposta giusta della prima domanda. Certo, perché ormai sì. Era difficile. Sì. Però era Jesus Christ Superstar. Ecco, c'erano detto Iron oppure Grease, ma invece era Jesus Christ Superstar. È un maestro. Com'è, no, che fa? Maestro. Com'è che fa? Superstar. bella sta canzone. Quando è che mi fai il musical Gesù Cristo Superstar, Cesare? Non vabbè, lo so, come non so. Vabbè, vengo a fare Gesù Cristo. No, assolutamente no. Cantateci la canzone e poi torniamo in studio. Caifa, ecco, forse è meglio. Faccio vai Erode. Perché non vuoi ascoltare quel grido che c'è in me? Perché non vedi che io sono qui per te? Perché è finita tra di noi? Ancora non lo so. Che fine ha fatto ormai l'amore che era in noi? Ma se ti stringo forte almeno senti l'SOS. Senza di te io grido solamente SOS. Senza te sono solo e mi chiedo perché. Senza te, ma che senso ha la vita per me? Sono lontani ormai i giorni insieme a te. E senza te lo sai, non ero più in me. Cos'è successo io non so, o non ricordo più. Che fine ha fatto ormai l'amore che era in noi? Ma se ti stringo forte almeno senti l'SOS. Senza di te io grido solamente SOS. Senza te non lo sai, non c'è vita per me. Senza te non lo sai, mai più sogni per me. Perché non mi avevi mai parlato di Sophie? Non sono affari tuoi. E questo tizio, Sky, com'è per lei? Anche questo non è affar tuo. Ma quando tu sei qui mi puoi sentire SOS. Solo l'amore può salvarmi, lancio un SOS. Senza te, senza te, sono sola, mi chiedo perché. Senza te, senza te, ma che senso ha la vita per me? Bellissimo, bellissimo, accattivante come non mai. SOS, un grandissimo pezzo accattivante. Voi l'avete interpretata alla vostra maniera, accattivante, come è giusto che sia così, perché il musical deve essere accattivante. Giusto, cosa dici Cesare? Certo, deve trasportare la gente e anche farle alzare dalle sedie. Perché? Che è quello che vorremmo raggiungere, almeno nel per finale. Per la fine dello spettacolo. Che deve coinvolgere tutti, dal primo all'ultimo, quello in fondo. Esatto, siamo fortunati che facendolo in un palazzetto polivalente dove le sedie non sono fisse, alla fine si potrebbe anche togliere le sedie e mettersi tutti a ballare. Esatto. Io credo che lo faranno, anche per rendere omaggio alla bellezza di questa rassegna. Beh, magari, guarda, sarebbe veramente io lo faccio successo. Primo. Bene, perfetto, perfetto. Ci saranno delle difficoltà del movimento. Torno al discorso del giochetto. Allora, quella persona che ci ha mandato l'SMS indovinando la risposta giusta, ovviamente riceverà una telefonata da parte tua, Cesaro da parte di Giovanni. Sì, esatto. Ecco, e vi metterete d'accordo poi, insomma, per la consegna dei biglietti e quant'altro. E poi ancora un saluto vi manda, meglio dire, Sergio Rules. È un vostro, mi diceva Antonella. Aspetta, vieni qua, di chi è? Ma non ci credo. Ha scritto un SMS Ubi, il nostro mitico Umberto, Sergio Rules. Che fa anche Umberto, che oltre a fare il ballerino farà anche la parte del prete e alla fine celebrerà il matrimonio. Ecco, quindi un saluto anche da parte sua. Sì, e salutiamo anche tutti quanti i ragazzi di Muge avremmo voluto portarli tutti qua, ma già siamo un po' stretti noi. Credo di avere il record stasera, vero? Maurizio? Sì, esattamente. Abbiamo superato il record di una band di Reggio Emilia, dunque siamo più di 10, sì, sicuramente. Sì, ma anche i Witmetrics. Anche i Witmetrics, esattamente. Alessandro, tu so che devi fare la solita domanda che faccio io, ma la fai tu stavolta, giusto? Allora, la domanda di rito, ti faccio questa domanda. A Cesare fai. Cesare, ti faccio questa domanda. A chi gliela fai? Una ragazza. La facciamo. Si nascondono. La facciamo. Falla ad Elisabetta, via. La facciamo ad Adriano. Ad Adriano, visto che ha parlato poco, scusa. Allora, Adriano, dici il motivo per cui il pubblico deve venire a vedere il nostro spettacolo. Non c'è più posto. Perché non sanno cosa fare, no? No! Sta scherzando! Perché lo trovo straordinario, lo trovo... a proposito, ti dico come mi sento io allora, no? Sì. Nonostante la mia veneranda età. Da ragazzino organizzavo le gite, no? E allora, per un mese... organizzavo la gita e quando arrivava la gita poi la gita durava 2 secondi e finiva tutto. Ecco, ci si sente così, capito? Quindi non si dorme, non si pensa sempre a sta cosa, si vive con intensità nonostante la mia età, voglio dire. e questo è significativo, secondo me. Ecco, per questo uno deve venire a vederlo, perché se noi lo viviamo così, immagina chi viene a vederlo come lo può vivere. Adriano, ti voglio bene. Perché è la stessa cosa che penso io. Cioè, io, a me capita di pensare, ma lunedì sarà finito tutto. Cioè. Ci sarà molta nostalgia, vero? Sì, anche se poi lo rifaremo di sicuro, giusto Cesare? Speriamo, certo. No, quello che vogliamo è portarlo comunque un po' in giro, però effettivamente... Beh, sono mesi che viviamo in simbiosi, perché ci vediamo mediamente dalle 4 alle 5 sera la settimana. E effettivamente lunedì uno dice, caspita, e adesso? Che bello. Lunedì sto in divano. No. Esatto, lunedì c'è la cena. Lunedì c'è la cena, martedì ricominciano le prove per lo spettacolo di Natale. Non siete sempre impegnati. Nonostante sì, il termine amatoriale, io lo trovo molto molto professionale. Cioè, su tutti i punti di vista, recitato, cantato, ballato, ecco. Secondo il mio punto di vista. Sì, è riduttivo dire amatoriale. Qui non c'è l'amatoriale. L'amatoriale è l'idea di no, inizio. Amatoriale, come ho detto anche altre volte, è nel senso che noi amiamo quello che stiamo facendo. Esattamente, quindi è una fatica immensa. Bella. No, ma guarda, in realtà la fatica ma la fatica premiata, perché certo. Arrivare a un certo punto, arrivare a fare uno spettacolo, è una cosa meravigliosa, come una band quando incide un album. È la stessa cosa. Esatto. È la stessa sì, cosa. Sì, è la esatto. Stessa cosa. Io ne approfitto, Cesare, consentimi, insomma, credo sia doveroso da parte di tutta Blu Radio Veneto ringraziare della tua, come dire, richiesta di partecipazione da parte nostra come media partner. Te ne siamo grati. Blu Radio Veneto ha avuto un grande piacere, un grande onore essere lì a vedere la vostra rassegna. Io per primo che mi hai voluto in giuria, e già che ci sono, quindi ti ringrazio apertamente, ringrazio anche tutti voi, a cominciare anche ovviamente dalla mia spalla sinistra qui, Antonella. Volevo salutare anche i vari altri giurati, se mi consenti. Certo, certo. Che sono Nando Bertaggia, che poi tra l'altro è un nostro amico, vero Maurizio? È una voce storica della nostra radio. Anche se poi adesso lui fa parte molto ma molto marginale. Poi c'è Lucia Perin. C'è Anna Sadocco, che sono due coreografe, se non sbaglio. Sì, esatto. Che hanno una scuola... Sì, una scuola di danza, le Scarpette Rosse, a Padova. E poi c'è un artista, un cantante, cantautore, se non sbaglio, brasiliano, di origine brasiliana, sì. E si chiama Elton Meyer. Esatto. E poi c'è anche la presentatrice... Sì, che non lo so, vuoi nominarla, non sì, lo si so. Si chiama Eva Di B. Eva Di B, che speravo di averla qui questa sera, mi aveva promesso che veniva, invece non, magari parlavamo un po' anche del burlesque che lei fa, l'attrice del burlesque. Ma insomma, la salutiamo caramente. Certo. E che dire, io ti auguro un successone, sono le 22:26, tra poco ci arriverà Sergio. No, anzi Renato, scusa, con la sua musica heavy metal classico. Musica, stavo dicendo musica rock. Musica, anche quello può essere un musica, perché musica, i metallari spesso volentieri si sono cimentati nel musical. Certo, certo. E con molto successo, tra parentesi. Cosa possiamo dire, finché non ci arriva Sergio, Cesare? Qualche parola vuoi spendere, vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno? Oppure anche voi, le ragazze, insomma. A parte che noi vorremmo finire anche con sì, una canzone. Sì, ma lo facciamo per ultimo. Lo facciamo per ultimo. Sì, certo. Io vorrei ringraziare tutti quanti, anche tutto il pubblico che sono venuti a vedere, perché è stato veramente un successo incredibile, soprattutto se si pensa al fatto che le persone che sono venute la prima volta, poi sono venute anche la seconda, poi sono venute la terza, perciò vuol dire che è piaciuto molto, lo so anche perché anche voi che siete venuti a vedere mi avete fatto un sacco di complimenti. Noi siamo molto soddisfatti e allo stesso tempo siamo anche terrorizzati dal fatto che ora noi dobbiamo, come posso dire, dimostrare di essere all'altezza di tutte le altre compagnie, ecco. Certo. E è una cosa anche difficile, è chiudere la rassegna. È bello iniziare, ma chiudere è ancora più difficile, secondo me. Sì. Perché la gente si ricorda subito la chiusura della rassegna. Certo, poi chiudere con uno spettacolo che è la prima volta che viene rappresentato anche per noi. Insomma, comunque abbiamo deciso cosa. Di farlo. È una bella faremo. Sfida, vinta esatto. Sicuramente. Sì, e poi insomma il pienone che farete, quindi sarà la conferma di questo che abbiamo poc'anzi detto. Insomma. Certo. Bene, che dire, io spero che l'anno prossimo sia ancora più grande, Cesare, mi avevi detto che forse ingrandisci. Sì, l'anno prossimo ingrandiamo direttamente il palazzetto, facciamo dei lavori. No, l'idea sarebbe quella di renderla almeno che possano partecipare un po' più di compagnie. Vediamo quello che si può fare, perché purtroppo non sono solo io a decidere. Se fossi solo io a decidere, farei un anno di spettacoli. Purtroppo c'è il comune che qua, però mi hanno dato veramente una mano. Adesso non è che voglio dire che loro mettono i bastoni tra le ruote, è che ovviamente ci sono degli spazi da rispettare e bisogna stare dentro quegli spazi. Prossimo musical in programma? Prossimo musical in programma, un musical bellissimo di cui non vi diremo assolutamente niente. È una cosa fantascientifica. Non lo sa nessuno. Dai, sul serio? Sì, ma no. Uno spiffero ce lo date? No. No, non possiamo, è una cosa troppo segreta. Vabbè, chiamo, veramente non l'hanno dato neanche a noi lo spiffero. Non chiamo niente. Se ti dicono qualcosa, io poi ti tartasso di telefonate che voglio Grazie, sapere. Ale. Cerca di spingere che sia Jesus Christ Superstar. No, te lo dico già subito. Niente. Allora We Will Rock You dei Queen, magari, che ne so. Siete troppo simpatici, siete delle carissime persone. Io ne approfitto anche per salutare anch'io, mi aggiungo ai tuoi saluti, Cesare, di poc'anzi, con le altre compagnie, perché sono state qui presenti ogni giovedì, ogni 15 giorni, e ci hanno regalato un'ora e mezza di simpatia, di allegria e poi di recitazione. Ce l'avete a proposito un'altra scenetta da fare qui, veloce, non cantare, dico una scenetta. Sì, sì, ho capito. No, stavo pensando a cosa si potrebbe fare, perché in realtà abbiamo la maggior parte delle scene che sono con tante persone e perciò, visto che qui siamo anche ridotti, ci sarebbero alcuni che dovrebbero fare una doppia parte. È un po' complicato, dire la verità, farla adesso. Agostino ha parlato di sfida, anche per noi è stata una sfida, che la prima volta a ospitare un musical non certo. È una cosa semplice per una radio, che però la nostra è una radio che ha tante vie aperte, e una via poteva essere anche il musical, e secondo me è stata positiva, perché abbiamo, sì, le compagnie sono venute, però hanno eseguito dal vivo certi pezzi, sì. È quello importante, non soltanto recitate, eseguite dal vivo, e quindi la gente ha capito, ha sentito, questo è importante secondo me. Certo. L'idea è partita da Agostino, è partita da te. No, è partita da Cesare veramente, che mi ha chiamato un giorno. È partita da te, nel senso lui, volevo dire. E dopo è partita da Cesare, poi Agostino chiaramente ha detto sì, e la nostra direzione ha detto sì, e è stata una cosa decisamente indovinata. Se è possibile lo faremo anche il prossimo anno. Certo, perché beh, no? Non dipende da noi, dipende da lui. Chiaramente dipende da tanti fattori, però l'idea dipende da lui, Bene, è arrivato Renato, adesso ci dobbiamo veramente salutare. Sono le 22:31, ci salutate con che canzone? Cosa facciamo, ragazzi? Decidete voi. Mamma mia. Rifacciamo Mamma Mia, così partiamo e chiudiamo con Mamma Mia. Mamma Mia, benissimo. Allora, l'appuntamento per quanto mi riguarda è giovedì prossimo con il Summertime. Sì, lavori solo giovedì e prossima settimana? Non lo so. Sì, solo giovedì. Sì. Vi consiglio di ascoltare giovedì prossimo, perché indipendentemente dal fatto che ci siano o meno i Summertime, ma perché daremo un grandissimo annuncio molto importante, perché per chi vive in tutto il mondo, perché potrete sentire, ma non vi dico altro, aspettate giovedì prossimo con i Summertime qui a Blu Radio Veneto, con Agostino, con Maurizio e con la loro musica, la presentazione del concerto che faranno l'8 dicembre qui al Palasport. Sì, la programmazione rock prosegue adesso con Renato, e domani c'è Marco Marco Borgato. Domani c'è Marco Borgato, poi lunedì si riprende con si tutti. Si riprende con tutti, con tutta la, perché la musica, the show must go on, come si dice, deve, no? Sempre, deve sempre continuare. Esatto. Grazie ancora a tutti, grazie alla compagnia Mushi di essere stati qui questa sera. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. Il nostro sì, certo, il nostro grande in bocca al lupo per sabato, per domenica. E di cuore, lo dico con il cuore e con tanto affetto a tutti voi, da parte mia, grazie di quello che avete fatto per la radio e per me. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Se è finita tra noi, c'è di certo un perché. Sono stata, lo sai, ingannata da te. Ma sai che c'è, non imparo mai insieme a te. Che mi capita non lo so, prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento le campane suonare, parli e mi sento sempre morire. Oh, oh, oh. Mamma mia, ci risiamo ancora. Mamma, sento che ci casco. Mamma mia, non resisto più.